L'umanità colta si è sempre affannata nel cercare il primo elemento di una serie, anche quando le cose non aveva alcun senso, se non inconfessabile. Nel suo bel libro dedicato alle lingue utopiche, Caterina Marrone racconta di alcuni sapienti che in un'antichità neppur tanto vetusta avrebbero fatto carte false pur di dimostrare quale lingua fosse stata quella primigenia, la protolingua di un'umanità presumibilmente felice da cui poi evolutivamente o di Babele in Babele fossero seguite tutte le altre. Secondo Athanasius Kircher, già nell'Eden si parlava l'ebraico. Poi ci fu chi, sempre intorno al 1600, sostenne che invece la lingua primitiva era il fiammingo, chi sostenne che era il celtico, chi lo svedese. L'olandese Giusto Scaligero propose invece il fenicio e altri, basandosi su argomentazioni palesemente inconsistenti, ma non per questo meno apprezzate dall'umanità colta, proposero soluzioni ancora più fantasiose. Da un saggio di Carlo Oliva, Lingua e Ideologia, un saggio del 73, cavo anche una preziosa informazione su tal Andreas Kempke, che con spirito maggiormente ecumenico di coloro che l'avevano preceduto, sostenne la tesi che nell'Eden Dio parlasse svedese, Adamo danese ed il serpente, tentatore malizioso, manco a dirlo, il francese. Di come parlasse Eva si tace, ma non c'è da stupirsi che da quei primi dibattiti non sia poi seguito niente di buono. Sull'argomento della diffusione dell'encefalite spongiforme e delle criminali responsabilità di alcuni governi in proposito, la nostra stampa è stata resa presto discreta. Tuttavia, discernendo nell'abile miscela, nei giorni scorsi si poteva anche venire a sapere che, ai noi sì, un esperimento di inoculazione di prioni ricavati dai cervelli malati delle vacche in alcune scimmie aveva dato esito positivo. La malattia è trasmissibile e se è trasmissibile alla scimmia non si vede quale interesse capitalistico possa impedirne la trasmissibilità all'uomo. Il biologo Montagnier ha già pronosticato per i prossimi anni un'ecatombe di massa di dimensioni inaudite. Forte di questa nuova consapevolezza, sulle pagine di Tempo Medico ho affrontato la consueta sintesi del rapporto annuale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, nel 95 si sono verificati 4 miliardi di episodi relativi a malattie diarroiche. 1 miliardo e 900 milioni di persone sono il nuovo totale dei portatori sani del bacillo della tubercolosi. 8 milioni e 900 mila sono i nuovi casi di malattia. 1 miliardo e 400 milioni di persone sono infestate da festanti popolazioni varie di vermi intestinali. 350 milioni sono i portatori cronici di epatite B. Circa 100 milioni quelli che portano a spasso l'epatite C. Le infezioni acute delle vie respiratorie inferiori nel 95 sono state 395 milioni. 330 milioni di persone sono state invece raggiunte da qualche agente patogeno che si è avvalso delle vie sessuali di trasmissione. 42 milioni di casi di morbillo e 40 milioni di casi di pertosse poi completano il quadro diagnostico. 17 milioni e 300 mila persone sono morte per malattie infettive. E una buona parte di queste infezioni si trasmettono anche attraverso gli alimenti, l'acqua e la terra. Come li leggo io questi dati, immagino che sappiano leggerli anche chi ci governa, ma chi ci governa è lì a governarci perché ce l'ho messo qualcuno, e questo qualcuno è per l'appunto il principale responsabile di questo stato di cose. Risorse spese per appestare il pianeta e in nome del progresso, falsificazioni, violenza. Il capitalismo, che ne dicano i prodi e i preti che lo amano ben temperato, non sa neppure cosa sia l'umanità, figuriamoci se può favorirne la solidarietà. Ai margini dell'utopia, qualcuno in cerca di valori solidi per massimi sistemi mirava anche alla prima lingua. Qui, in piena distopia, nel disastro dell'utopia negativa, quando ci accontenteremo anche di un sistema minimo per campare, sarebbe il caso di pensare a quale potrà essere l'ultima lingua, in che lingua verrà pronunciata l'ultima imprecazione. Sul mio balcone, da sotto un vecchio armadietto, nei giorni scorsi spuntavano alcuni ramoscelli secchi, fili di erba secca e qualche fogliolina. Strano, mi son detto, sarà stato il vento e ho fatto pulizia. Ieri, mentre sto per buttare il pattume, ce n'era ancora, ma sullo stand di biancheria c'era un piccione che mi guardava, con un ramoscello nel becco. Ho capito, ok, gli ho detto. Poi sono stato a guardare da dietro il vetro. Una coppia di piccioni ha scelto il mio balcone per farci il nido. Tutto ciò mi pare molto bello. Sono sicuro che fra loro, entro certi limiti, si intenderanno, senza porsi mai il problema di sapere quale sia stata la loro prima lingua e la loro lingua primigenia, men che meno quale sarà l'ultima. E così faranno i loro prossimi pulcini. Auguri, ragazzi.